Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, a cavallo tra Italia e Europa, chiaramente. Perché? Perché l'Europa sta, e soprattutto la Germania, chiaramente, sta reagendo, valutando quello che è successo ieri. Pesante sconfitta della CDU di Angela Merkel, ha perso quasi 10 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. Vedo il tecnico che festeggia, qui ormai siamo allo stadio, ma questo, al di là della battuta, dovrebbe, lo dico con massimo rispetto, far capire anche ai tedeschi quando un giusto richiamo al rigore, all'austerità, al controllo dei conti pubblici rischia poi di trasformarsi in uno stolido e cieco, una stolida e cieca miopia che sostanzialmente fa male in primo luogo ai tedeschi, perché se avanti così diventeranno loro il capro espiatorio europeo, e noi non lo vogliamo assolutamente. Vogliamo che invece ci sia una politica europea fatta di politica, non solo di calcoli da ragioniere. Va bene ridurre il deficit, va bene ridurre il debito, ci mancherebbe, però anche l'orizzonte, lo spirito, la pancia, non si ragiona solo col pallottoliere se si vuole stare in Europa. Chissà se ci resterà la Grecia in Europa invece, perché ancora molto molto molto turbolenta la situazione in Grecia. Oggi tra l'altro l'agenzia di rating Fitch ha detto che se la Grecia dovesse lasciare l'euro vi sarebbe anche un abbassamento del voto di alcune aziende europee, principalmente in Spagna, Portogallo e in Italia. Nel frattempo Moody's è intervenuta su Madrid, sulla Spagna, quindi ha detto lo sforzo di Madrid, Moody's è una delle tre agenzie di rating, per riportare la fiducia nel sistema bancario spagnolo, sta facendo aumentare da un lato gli accantonamenti delle banche, ma aumenta anche il debito spagnolo e può minacciare la sua solidità creditizia. Ha rinviato però il taglio al rating di oltre 100 banche internazionali, cioè l'abbassamento di voto a oltre 100 banche internazionali, Moody's oggi. Angela Merkel ribadisce che non c'è contrapposizione fra la crescita e il risparmio, fra crescita e rigore, in una conferenza stampa. Domani Angela Merkel incontrerà François Hollande e vedremo quanto Hollande farà sul serio nel dire cara Germania, va bene il rigore, ma dobbiamo darci anche gli obiettivi di crescita in questa Europa, perché lentamente stiamo perdendo i pezzi. Se la Grecia è un pezzo ormai rotto, i prossimi si chiamano, se avanti così, Portogallo, Spagna, e anche noi, no, con 400-430 punti di spread inchiodati lì come in Spagna, non ce la passiamo tanto bene. Allora occorre dare un segnale forte sia sul fronte della Banca Centrale Europea, maggiore autonomia, possibilità di fare quello che fanno le altre banche centrali al mondo, e quindi garantire in ultima istanza le banche del continente, stampare moneta, imbarcare un po' di inflazione. Non si capisce perché dobbiamo morire per tenere l'inflazione al 2%. E poi dall'altra parte anche avere un'Europa che decide che alcuni investimenti possono non essere calcolati nel deficit. Se tu costruisci un treno, un'autostrada, scusatemi, una ferrovia o anche una rete infrastrutturale, queste cose puoi levarle dal calcolo del deficit. Il deficit dovrebbe riguardare, secondo molti e anche secondo noi, le spese correnti, cioè quello che realmente non sei riuscito a gestire, non gli investimenti che ti renderanno più competitivo nel futuro. Come avete capito, di Germania parleremo a lungo nella seconda ora del programma con Ernesto Galli della Loggia, notista politico del Corriere della Sera, che ha scritto un fondo bellissimo ieri su Corriere della Sera, a mio avviso, proprio sulla difficoltà della Germania a diventare leader e a esercitare una leadership in Europa. E ancora leadership non solo economica, quella c'era già, leadership politica, leadership di valori e di modello. E in apertura invece la Consob, ecco perché dicevo dall'Italia all'Europa e dall'Europa all'Italia. Oggi la relazione del presidente Vegas sull'attività della Consob, mentre appunto i PM si muovono ancora a Siena, e veniamo da situazioni che si chiamano San Raffaele, lì la Consob c'entrava meno perché è l'autorità di vigilanza sui mercati, però invece su Fondiaria Assai forse qualcosina in più si poteva sentire un po' prima nel passaggio Cardia, il cui figlio viveva, ha vissuto in un immobile di Ligresti, se non ricordo male. E dicevo, nel passaggio Cardia Vegas. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, c'è chi scrive, finitele di dire cavolate, dice un altro termine, in realtà era un voto locale, impari il tedesco e legge i giornali, ignorante, per carità, io tedesco cercherò di impararlo, i giornali cerco di leggerli, ma non lo deve spiegare a me, lo deve spiegare soprattutto i mercati finanziari, che oggi, dopo quello che è successo in Germania e in Grecia, la vedono ancora più nera sul futuro dell'Europa, meno 2,70%. Milano, meno 2,24% Parigi, meno 2% Francoforte, meno 2% anche Londra. L'America è debole di 1,080, l'euro soprattutto è indebolito a 1,28,36 nei confronti del dollaro. E comunque, se a lei va bene così, non mi sembra, io giudico i fatti, non mi sembra che la posizione tedesca, iniziata a marzo del 2010, la Grecia non va salvata, la Grecia deve pagare per gli errori fatti. Beh, non mi sembra che quel rigore lì, fermo restando che il rigore ci vuole, ma che quel rigore lì senza futuro, quegli antibiotici senza vitamine, stiano portando l'Europa da qualunque parte. Ci becchiamo un altro anno di recessione e anche la Germania farà più 0,6% quest'anno. L'anno prossimo, se ci va bene, facciamo più 0,4. L'America è preoccupata, Krugman, Soros, tutti i grandi o capitalisti come Soros o economisti americani dicono che stiamo sbagliando, ma evidentemente lei la ritiene e la pensa diversamente. Arriviamo a Vegas e alla Consob. Due notizie in breve ancora per quello che riguarda i titoli. Bene anche oggi, dopo che si è chiusa la vicenda Edison, A2A più 4,31, ma c'è anche la trimestrale che pesava in senso positivo, di Assorin più 3%, Monte dei Paschi più 1,80, Mediaset più 1,30, Pirelli più 0,70%, male invece banche, ma non solo oggi, Mediolanum perde il 6,90, Estimac Electronics il 4,70, Enel il 4,60 come Unicredit, Telecom perde il 4,5, Fiat il 4,20, Finmeccanica il 4 come Autogrill e Parmalat e anche Prismian, cioè l'ex Pirelli Cavi, Buzzi Unice meno 3,70, Intesa San Paolo meno 3,5 come la Popolare di Milano e la Popolare Emilia Romagna, Exor meno 3,15%, Fiat intesa come auto e trattori meno 2,80%, Fiat Industrial, Ubibanca meno 2,70 e Eni meno 2,5 come il Banco Popolare. Cosa sta facendo vendere titoli europei? Beh, il timore che la Grecia esca fuori dall'euro. Avete visto la proiezione della settimana scorsa? Dal 40 al 50% di inflazione in Grecia, come calcolo dell'uscita dall'euro, un danno economico per i greci di 11.000 euro a cranio in Grecia, e poi un danno complessivo che si protrarrà nel tempo. Ripeto, l'inflazione che schizza al 50%, ma voi ve lo immaginate cosa vuol dire vivere in un paese con l'inflazione al 50%. Però le borse sono preoccupate sia dalla Grecia che dalla Germania. Insomma, il fatto che gli elettori tedeschi saranno anche solo elezioni locali, come scrive diciamo Schmidt de Noartri, però guardi che in quel land abitano un quarto dei tedeschi e il PIL di quel land sostanzialmente muove quasi un quinto di tutto il PIL tedesco, per cui saranno anche solo un voto locale, ma evidentemente la pensa solo lei così. E non a caso, dopo Germania e Grecia, in Spagna lo spread è tornato vicinissimo ai 490 punti base, praticamente i bonus, i BTP spagnoli rendono il 6,35% al massimo da 5 mesi a questa parte, e anche noi non possiamo ridere, 430 punti di spread, ossia la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi alla Germania è al 4,3%, e i nostri titoli a 10 anni rendono il 5,75%. Volete sapere anche di JP Morgan? Ma JP Morgan, quanti anni è che diciamo dal 2009 che non è cambiato niente in America, che non riescono a fare la proposta Volcker, cioè separare la banca commerciale, quella che raccoglie i soldi dei risparmiatori e deve prestare i soldi alle imprese dei risparmiatori, dalla banca d'affari? Evidentemente la lobby di Wall Street è più forte, e Timothy Geithner da lì viene e lì tornerà, il ministro dell'economia americano, segretario del tesoro americano, su cui personalmente non ho nessuna fiducia che riesca a fare una riforma che vada ad attaccare Wall Street, la Wall Street dove lui poi dovrà tornare a lavorare fra qualche anno. E tutti teniamo famiglia, anche Timothy Geithner tiene famiglia. Comunque buona l'asta oggi in Italia, il Tesoro ha collocato 3 miliardi e mezzo di BTP a 3 anni, tassi stabili al 3,91%. In Spagna sono saliti i tassi e cala invece la domanda nell'asta dei bot spagnoli a 12 mesi. Parleremo più avanti anche dell'asta dei titoli. Due sole notizie in breve. L'Istat ha confermato l'inflazione stabile al 3,3% ad aprile. Il calo della spesa però vede un'inflazione crescere al 4,7%, al massimo dal 2008. Perché questo? Non perché noi europei o noi italiani stiamo consumando tanto perché ci sentiamo ricchi e vogliamo spendere, i prezzi salgono, ma perché c'è un petrolio che viaggiando ai $100 porta la benzina a un più 21% ad aprile rispetto all'aprile del 2011. Poi ci sono anche le accise e l'IVA, che nessun governo, tutti parlano di questa IVA. Ancora dobbiamo vedere un'azione sull'IVA anticiclica nella benzina. Siamo al record quanto aumento anno su anno della benzina dal 1983. Adesso andremo a vedere quanto faceva il petrolio l'anno scorso ad aprile, perché dubito che il più 21% della benzina, che è il record dal 1983 come rialzo in un anno, possa essere giustificato da un record del rialzo del prezzo del petrolio aprile 2011 su aprile 2012. A memoria non mi sembra possibile. Parleremo anche di Termini Imerese, perché gli operai sono inferociti, non si capisce più che cosa succederà dell'operazione di R. Hanno occupato anche l'agenzia Unicredit e la filiale dell'agenzia Unicredit Termini Imerese e anche quella di Intesa San Paolo. La DR Motor era la società che secondo gli accordi con Invitalia avrebbe dovuto rilevare lo stabilimento della Fiat a Termini Imerese e assumere buona parte dei 2200 lavoratori, di cui 670 sono rimasti esodati. Caro ministro Fornero, quando lei dice ho sbagliato, 670 lavoratori della Fiat, che non è che venissero da reddite, patrimoni e capitali, sono esodati, non hanno né lo stipendio né la pensione. E poi la DR Motor è scomparsa, abbiamo cercato il suo presidente proprietario tutto il giorno, allora lui non risponde al cellulare, è staccato, la segretaria al cellulare è staccato, l'ufficio stampa al cellulare è staccato, non risponde ai telefoni. E però c'è qualche buona notizia anche oggi, riusciamo un po' con il lanternino a trovarle, e ci sono notizie che riguardano, pensate un po', la nostra spesa sanitaria. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, se si vuole si può. Insomma, avevamo già avuto altri casi nel passato. La ASL di Reggio Calabria, quando fu commissariata per infiltrazioni mafiose, fu mandato un generale dei carabinieri, i costi di quella ASL crollarono del 50%. Pensate che si pagavano per un pacco da cerotti da 20 euro si pagavano 3.500 euro, per 6 nuovi camici se non ordinavano 2.800. Anche a Palermo, quando era arrivato un membro dei carabinieri alla ASL di Palermo, tutti i costi erano improvvisamente e miracolosamente scesi. Il costo di un attacco era sceso da 128.000 euro a 9.000 euro. Un ciclo di terapia per tumore alla prostata era sceso da 136.000 a 8.000 euro. E non è che lo curassero peggio in quel modo. Beh, oggi si è scoperto che l'ex generale dei carabinieri Maurizio Scoppa, che ricopre il ruolo di commissario della ASL Napoli 1, la più grande d'Italia, ma anche una ASL che ha 1.300.000.000 di debito consolidato, 460 milioni di euro di disavanzo, beh, Scoppa è riuscito con il suo lavoro a ridurre il debito di 400 milioni, ha abbattuto il disavanzo a 298 milioni e ha ridotto del 10% i costi per l'acquisto di beni, del 5% quello dei servizi, del 20% la spesa per il personale. E lo stesso sta facendo il suo collega, anche lui, colonnello dei Carabinieri, Maurizio Bortoletti, ASL di Salerno. Ha fatto spendere all'ASL di Salerno 170 milioni di euro in meno e ha sottoscritto un accordo con la Confindustria locale. Tutto questo lo dobbiamo a Sole 24 Ore di oggi, complimenti ai colleghi. Con la Confindustria locale per il pagamento entro i termini contrattuali delle prestazioni dei fornitori, quindi cioè, pagano a 60-90 giorni. I cittadini non hanno avuto nessun danno da questi risparmi, a dimostrazione che se arrivano i carabinieri nella AS e non i politici eletti, gli amministratori, i politici trombati messi lì, si risparmia, e a dimostrazione che si può fare. Si può fare! Questa crisi, ma cos'è questa crisi? Sì, si può fare, lo dico anche al ministro Giarda, si può fare, al mitico Enrico Bondi, si può fare, sono bastati due carabinieri, per quanto colonnelli, generali, a ridurre di centinaia di milioni i costi della ASL a Salerno e a Napoli, zona in cui la camorra ha un certo leggerissimo peso, ma evidentemente si può fare. Quello che non si può fare invece è quello che ha fatto la JP Morgan, perché a me è sembrata tanto la Société Générale di 2-3 anni fa, tutto colpa di un uomo. Nessuno si era accorto che ci fosse questo Jérôme Creviel americano, questa specie di Gordon Gekko in salsa JP Morgan, che ha distrutto il valore della JP Morgan con 2 miliardi e passa di buco sui derivati. C'è il trader francese Bruno Michel Ixil, che vanta compensi da 100 milioni di dollari l'anno e lavora da Londra, ha effettuato ingenti e fallimentari operazioni sui credit swaps. L'ultima scommessa lo ha visto vendere CDS, che sono i premi sulle polizze che si pagano contro il rischio di fallimento, nella convinzione che le condizioni finanziarie andassero migliorando. Perderà il posto lui, perderà il posto anche Ina Drew, capo della divisione rischi della banca, è una delle donne più potenti di Wall Street, con un stipendio da 14 milioni di dollari l'anno. Licenziato anche un dirigente della sede londinese della banca. Io licenzierei anche Jamie Dimon, che è il numero della banca, perché quando ti fanno un buco del genere ed era tutta gente autorizzata, forse dovevi controllare un po' di più. Nel frattempo aspettiamo che da Wall Street arrivi la legge sulla separazione tra banche d'affari e banche commerciali, quella legge su cui proprio Jamie Dimon, il numero uno di JP Morgan, si era ferocemente opposto. Adesso forse abbiamo capito perché. E dai mercati finanziari americani a quelli di casa nostra, con la relazione annuale della Consob, 349-238-6666 per i vostri sms. Stop alla finanza innovativa, brucia il risparmio, ha detto il presidente della Consob Vegas. Ha anche parlato Giuseppe Vegas dell'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Ma il nostro Simone Spezia, l'abbiamo mandato alla relazione della Consob, ha raggiunto la fine della relazione Giuseppe Vegas. Ascoltiamo questa intervista. Il problema dello spread è che è un indicatore, però un indicatore basato su dati oggettivi e anche soggettivi. Insomma, lo spread sta ai fondamentali come la temperatura sta quando la mamma dice mettiti il golf che fa freddo. Allora la mamma può anche aver ragione perché può fare freddo, ma può anche darsi che sia una sua sensazione soggettiva. Allora, lo spread si sta condizionando la vita, ma bisogna vedere cosa sta sotto. Allora, se guardiamo i fondamentali di un paese come l'Italia, certo abbiamo un debito pubblico elevato, però è un debito pubblico che è cresciuto molto meno rispetto a quello per esempio della Francia o dell'Inghilterra negli ultimi due anni. Abbiamo una spesa pubblica eccessiva, però si sta lavorando per ridurla. Certo la tassazione adesso è alta, però anche questo, in questo caso calerà. Abbiamo però moltissime imprese che sono competitive, soprattutto all'estero. E allora noi non dobbiamo buttare a mare questo patrimonio che abbiamo solo per un indicatore, dobbiamo correggere i fondamentali una volta corretti e avere meno paura di guardare tutte le mattine gli indicatori di borsa, che certo sono significativi ma non sono la nostra vita sono le nostre imprese, sono i nostri lavoratori, è il nostro sistema di vita. È semplicemente questo volevo dire. Le sembra che il voto in Germania sia da interpretare anche come una sorta di forma di ribellione a questa dittatura dello spread della quale ha parlato, o subentrano elementi diversi? Ovviamente poi è chiaro che è successo in quasi tutta Europa, i governi perdono in una fase di difficoltà quando vanno al voto, quindi anche se un governo ha governato bene però rischia di perdere perché c'è sempre un elemento di ribellione, questo fa parte della fisiologia dei sistemi elettorali, mettiamola così. È chiaro che però forse anche i tedeschi si stanno rendendo conto che possono avere qualcosa da perdere più che da guadagnare in una politica di stretto rigore. Intendiamoci, il rigore è indispensabile perché non si possono buttare via e sperperare risorse pubbliche, però bisogna stare molto attenti che se noi competiamo con delle masse continentali come gli Stati Uniti, la Cina, l'India e cose di questo genere e questi corrono con due gambe e noi con il sistema che è stato adottato nelle finanze pubbliche corriamo con una gamba sola e quindi rischiamo veramente di farci male. Per una fase di tempo magari limitata, però forse un allentamento anche della dell'economia, anche sotto un profilo della valuta, forse sarebbe desiderabile. Venendo più strettamente ai mercati, tra l'altro mentre la sto intervistando in questo momento il FTSE MIB lascia sul terreno un 3% circa, quindi un'altra giornata piuttosto pesante. Lei mi sembra sia intervenuto su molti fronti naturalmente, quelli che mi sono sembrati più interessanti sono quelli della semplificazione della regolamentazione, perché abbiamo visto che è il caso JP Morgan, mi sembra lo dimostri ampiamente, che migliaia di pagine di legge evidentemente non servono. Il Dodd-Frank Act, quello adottato negli Stati Uniti dopo la crisi del 2008, sono 2000 pagine che ancora non hanno ottenuto tutti i regolamenti applicativi. È chiaro che in 2000 pagine si può dire tutto e contrario di tutto e non si riesce a regolare il fenomeno. Faccio esempio proprio banalissimo: il settimo comandamento dice non rubare, due parole. Il nostro codice penale, la parte del furto, è regolata da 827 parole. Mi domando, ci sono più furti adesso o all'epoca di Mosè? Allora, questa è l'intervista del nostro Simone Spezia al presidente della Consob Giuseppe Vegas. È in studio con noi Riccardo Sabatini, che da sempre per il Sole 24 Ore segue la Consob e non solo. Buonasera Riccardo innanzitutto. Salve. Raccolgo il testimone da un ascoltatore, ma dice: ma perché Vegas non parla della Consob e parla dello spread? Allora, anche io oggi ho letto una relazione molto importante, molto bella, in cui il presidente della Consob ha citato l'ipotesi che la Grecia uscisse dall'euro come ipotesi non reale, cresce l'insofferenza per la dittatura dello spread e va bene, occorre punire comportamenti gravi, spingere le aziende pubbliche in borsa, bene se si quotano le poste e le ferrovie, però insomma qualche cosina su Fondiaria non ce lo poteva dire, su Unipol, no, su Monte dei Paschi, su le cose di cui ci stiamo occupando in questi giorni? No, l'osservazione è almeno in parte giusta, nel senso che quella di Vegas è stata una relazione politica con sconfinamenti in una materia che forse non riguarda così nemmeno tanto. Perché presidente della Consob deve parlare dello spread, per carità, tutti possiamo parlare dello spread mentre ci beviamo uno spritz, ma no? Beh, però è pure vero che la rilevanza di questi argomenti ha un impatto talmente violento sui mercati finanziari che da un certo lui risponderebbe così, ha una rilevanza così rilevante sui mercati finanziari che obiettivamente è impossibile anche non parlarne. Il problema è la misura, il problema è diciamo lo spazio d'azione che un'autorità come la Consob può avere in un andamento dei mercati finanziari che ha queste caratteristiche. Però poi certamente ci sono i problemi di casa nostra, ci sono i problemi della Fonsai, ci sono i problemi del risparmio che non è sempre tutelato, ci sono i problemi delle tante piccole e grandi scorrettezze che chi sta a vivere nei mercati. Sì, anche il modo in cui vengono venduti alcuni prodotti finanziari, anche per esempio l'ipotesi di bloccare di nuovo le vendite allo scoperto. Cioè mi è sembrato un Vegas più... Lui viene dalla politica, è stato vice ministro del secondo governo Berlusconi. Beh, lui mi è sembrato più politico che è sicuramente perché... così. Peraltro quando lui dice bisogna ridurre la spesa pubblica, lo diceva in questa intervista anche che ha fatto fatto a Simone Spezia, vabbè, però uno può anche rispondere, scusi, ma lei dov'era, visto che nei precedenti 10 anni era sottosegretario e viceministro, e viceministro dell'economia. Per cui... Allora, dopo il meteo e la pubblicità, nel poco tempo che ci lascerà nel carico pubblicitario, di cui siamo tutti contenti, vorrei sapere a te quali sono i nodi risolti, perché sennò qua a fare la relazione alla Consob parlando di spread vorrà dire che parleranno di vigilanza al vertice dell'Eurogruppo di questa sera, se continuiamo a invertire i ruoli. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo della relazione oggi del presidente della Consob, la Consob è l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, Giuseppe Vegas, che si è molto occupato di scenari economici, un po' meno, secondo me, o in maniera più sottotono, del ruolo vero e proprio della Consob. Perché lo dico? Perché la vicenda fondiaria, sai, non c'è solo Monte dei Paschi, è un vero e proprio germinaio, è un germinaio su fonte dei debiti, 1.300 milioni di esposizione verso le banche, soprattutto Mediobanca, ma anche nella governance interna, consulenze pagate a Ligresti che ne era proprietario, 40 milioni di euro pagati a Ligresti, i compensi del CDA nel 2011, 31 milioni di euro di bonus, il gruppo nel 2011 ha chiuso con 1.5 miliardi di perdite però si sono dati 31 milioni di euro di bonus i vari membri del CDA, io nella Ligresti 2.5 milioni, Paolo Ligresti 2.100.000, Giulia Ligresti 900.000, Fausto Marchionni che si è dimesso nel 2011 10.5 milioni di buona uscita per aver chiuso un bilancio con oltre 1 miliardo di euro di perdita. E poi alcuni problemucci, perché Andrea Giannini, figlio del presidente dell'ISVAP, che è l'autorità di vigilanza e la Consob sulle assicurazioni, Giancarlo è il presidente, ha lavorato in fondiere set 2005-2006, nulla di illegale. So che il presidente Giannini si è molto arrabbiato per le nostre dichiarazioni, che ci chiami, non c'è niente di illegale, è solo un problema di opportunità, che tuo figlio lavori in una società che tu devi controllare e vigilare non è il massimo. E ancora di più lo direi al predecessore di Vegas, l'ex presidente della Consob, Lamberto Cardia, il cui figlio Marco è stato inquilino di un appartamento di proprietà degli Gresti, ma Riccardo Sabatini svolgeva anche un compito importante per Fondiere Sai. Beh sì, lui era responsabile della... diciamo, era consulente per la disciplina 231, che sono tutte quelle normative, peraltro complicatissime, che dovrebbero tenere sotto controllo i rischi societari e impedire in qualche misura che la cassa si svuoti. Per un gruppo che perde 1.3 miliardi, meno male che eri il figlio del presidente della Consob. Allora, venendo a noi, che cos'è che su cosa Vegas ha posto poco l'accento in maniera critica? E dove ha magari anche mancato di rivendicare iniziative anche importanti della Consob? Beh, torno a dire, il compito di un regolatore in questo periodo è difficilissimo, perché si scontra con temi macroeconomici che prendono il sopravvento in molte questioni. Resta il fatto però che in questa situazione però qualcosa si riesce a fare. Faccio un esempio. La Consob nella vicenda di Edison ha sostanzialmente imposto un'OPA alla società francese EDF, OPA che i francesi non volevano assolutamente fare. Così facendo e con l'ulteriore ritocco di quest'OPA che è avvenuto proprio in questi giorni, beh, insomma, i piccoli azionisti di Edison hanno avuto quel titolo protetto per tutti questi mesi, mentre invece le società elettriche dello stesso settore perdevano il 20, il 30% in borsa. Obiettivamente questa è una cosa che Vegas forse avrebbe potuto rivendicare come un successo della sua strategia. Più controverso è l'atteggiamento che ho avuto in Fondiaria Sai, in cui, diciamo, si è mosso di anticipo imponendo a Unipol il cambiamento del suo progetto. Però anche in quel caso, tutto sommato, quel progetto è molto criticato l'intervento, anche uno dei suoi consiglieri, se non ricordo male, accolsero con scetticismo questa mossa preventiva della Consob, diciamo così. Uno dei commissari della Consob, commissari della Consob, però soprattutto mi è sembrato su un problema formale, cioè sul fatto che non si fosse in qualche misura consultato con il resto della commissione. Anche lì ha fatto bene, ha fatto male. È vero che il progetto da un certo punto di vista è migliorato, come anche l'antitrust ha agito in anticipo in questa vicenda per ottenere da subito dei risultati. Insomma, le autorità cercano di avere un atteggiamento proattivo sulle vicende, capisco il perché si rendono conto che un no pronunciato alla fine di una lunga istruttoria possa talmente scompaginare un progetto finanziario che poi non si riesce rapidamente a trovarne un altro. Nel caso di Fonsai, ad esempio, il problema veramente complicato è che esistono due offerte nei fatti, quella di Unipol sulla compagnia e quella di Sator Palladio, offerte che però non si misurano con OPA contrapposte come noi conoscevamo, che in quel caso l'iter di quelle OPA è del tutto confrontabile per gli investitori. In questo caso invece, essendo operazioni che sono, non dico fuori mercato, ma insomma non prevedono il lancio di OPA, allora a quel punto è più difficile confrontarle. Certo. E tra l'altro alcuni ascoltatori ricordano anche la vicenda Meridiana Fly, insomma c'era, secondo me è stata una, col massimo rispetto, una relazione molto ben impostata, per esempio sui derivati. Vegas si è scagliato con forza contro gli strumenti derivati, quindi gli strumenti altamente speculativi, ha detto che danneggiano l'economia oltre che insomma danneggiare la finanza stessa, però serve la revisione del codice civile e quant'altro, però forse qualche caso più concreto me lo sarei aspettato, qualche critica alla poca trasparenza che abbiamo visto anche nel rapporto tra banche e assicurazioni, tra banche e imprese, forse me la sarei aspettata. Grazie a Riccardo Sabatini. Il traffico, poi la borsa e, se ce la facciamo, anche velocissimi termini merese. E poi la pagina, l'ampia pagina sulla Germania e sul futuro dell'Europa con Ernesto Galli della Loggia. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti la borsa, allora, e poi il resto del programma. Meno 2,74% nel finale Milano, la peggiore tra le principali borse. Meno 2,30 Parigi, meno 1,90 Francoforte, meno 1,80 Londra. Non è piaciuta, non sta piacendo la vicenda greca, ma neanche l'esito elettorale in Germania. E allora, come sempre, con Radio Corriere sulle 24 ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Mediolanum meno 7% e Enel meno 5% come stima Microelectronics. Enel Green Power, meno 4,90 Unicredit, meno 4,70 Telecom, meno 4,40 Prismian, meno 4,20 Finmeccanica, meno 4% Fiat. Bene invece A2A più 4,50 e Diasorin più 2,70. A2A e Diasorin. Sì, per quanto riguarda A2A, un bel rimbalzo che sta continuando ormai da 4 sedute, titolo fortemente penalizzato all'inizio dell'anno, ma i risultati della trimestrale diffusi nei giorni scorsi, uniti all'ottimismo per il recupero del settore delle attività idroelettriche del Montenegro per il 2012, stanno dando vita a un ottimo rimbalzo. Ha guadagnato oltre il 20% in 4 sedute. C'è da dire che venerdì è arrivato anche l'ok dell'antitrust UE all'operazione EDF su Edison, ecco perché A2A ha guadagnato il 4,5%, Edison in una giornata negativa diffusa anche per quanto riguarda le altre utilities ha tenuto, ha perso solo l'1%, quindi molto bene A2A in tenuta Edison. E di Asorin, appunto, i conti di venerdì scorso accolti positivamente nonostante il calo degli utili, in linea con l'attesa. Comunque il settore bancario va male, non ve lo so neanche spiegare, per via di Spagna, Grecia, Spagna sulle aste, Germania e poi anche JP Morgan, c'è molto timore su quello che potrebbe capitare alla banca. Mediolanum però aveva una bella trimestrale e oggi perde il 7%. Esatto, era una bella trimestrale e c'era un grande ottimismo anche da parte manifestato da Ennio Doris per quanto riguarda un 2012 da record, ma va detto che insomma oggi sul settore finanziario si è andati pesantemente a realizzare. Mediolanum nell'ultima settimana aveva fatto più 5%, il mercato insomma non ha aspettato altri motivi per andare a vendere e quindi era un buon titolo su cui andare a realizzare. Fondiaria Assai, domani c'è il consiglio di amministrazione decisivo per decidere la strada da prendere per il salvataggio e anche sulla questione Concambi. Il titolo oggi? Il titolo titolo ha perso quasi il 7%, insomma si arriva alla stretta finale molto importante. Oggi ha sottolineato anche l'amministratore delegato Erbetta, ha detto che insomma domani ormai la stretta finale è importante, scelta tra Satro, Palladio e Unipol, ma soprattutto indicazione di concambio della struttura dell'operazione con Unipol. Una buona notizia arriva invece da Buongiorno, più 13% vicino a 2 euro per azione. Sì, è arrivata a sorpresa l'annuncio di un'OPA da parte di Docomo Deutschland, cioè la controllata tedesca del gruppo giapponese NTT Docomo, su Buongiorno a prezzo di 2 euro per azione. Buongiorno è una società che fa applicazioni per la telefonia mobile e anche per il PC, per internet, iPad, eccetera. Un'offerta a 2 euro per azione, il mercato ha subito provveduto ad allineare il prezzo dell'azione a quello dell'OPA, ecco, sì. Perché ha fatto più 13. L'unico bancario positivo, ma perché aveva perso moltissimo per buona parte della giornata, è stato Monte dei Paschi, che è chiuso con un più 1,33%, stabile anche Ansaldo STS. Dopo la dichiarazione di Orsi del numero di Finmeccanica di venerdì scorso, ha detto infatti di attendersi la cessione degli asset non nel core business, tra cui Ansaldo, entro la fine dell'anno. E il titolo era abbastanza stabile lungo tutta la seduta. Segnalo tra chi ha perso molto anche il gruppo Fiat, meno 4% Fiat Auto, meno 2,91% Fiat Industrial. Grazie Andrea Fontana, restiamo in tema di Fiat e ringrazio a questo punto anche Andrea Malan per averci raggiunto in collegamento. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Perché oggi gli ex operai di Termini Imerese, ricordate la vicenda, no? La Fiat ha chiuso Termini Imerese, 1500 dipendenti, si produceva la Lancia Y. A fine 2011 ha chiuso lo stabilimento, doveva essere rilevato l'accordo col governo dalla DR Automobiles Group, abbiamo intervistato anche noi il suo presidente, eppure adesso non li riusciamo nemmeno a trovare al telefono. Che succede, visto che gli operai hanno occupato anche le sedi bancarie di Intesa San Paolo e Unicredit? Bene, la situazione è abbastanza chiara, l'accordo con la DR Motor è stato firmato ai primi di dicembre, quindi diciamo quasi 6 mesi fa. La DR Motor, che è stata l'azienda prescelta appunto per subentrare e si è impegnata a riassumere nel medio periodo 1300 dei 2200 dipendenti che aveva l'impianto Fiat, ha dei problemi finanziari, che stava rinegoziando fin dal 2010 con le banche, ha in sostanza un indebitamento elevato rispetto al patrimonio netto. I negoziati con le banche sono andati avanti oramai da un anno e mezzo. Per darvi un'idea, il bilancio 2010 è stato approvato solo a fine 2011 e non è neppure stato depositato, e la situazione è sostanzialmente rimasta la stessa. In queste però condizioni, scusami, come ha fatto il governo a Invitalia nello specifico a fidarsi? De Riso si chiama lui, che è stato anche nostro ospite. La DR Motor è un'azienda, una piccola azienda che in sostanza ha venduto con un discreto successo per un paio d'anni, si parla di qualche migliaio di unità, delle auto in sostanza importate dalla Cina e riadattate al mercato italiano, cambiando a volte alcuni elementi elettronici, alcuni elementi di carrozzeria, e vendute appunto con il marchio DR. Come ha fatto il ministro Raffidarsi? La proposta di DR era probabilmente la migliore che è arrivata. Diciamo, partiamo da un punto: se la Fiat decide di non produrre più a Termini Imerese, è chiaro che vuol dire che un elemento di mancanza di competitività c'è, cioè poi possiamo dire se ha fatto bene, ha fatto male, incolpare Marchionne, piuttosto che, diciamo che nell'ambito della strategia Fiat sappiamo che c'è un forte eccesso di capacità che vale per molti gruppi europei, Fiat ha deciso di chiudere Termini. L'idea che qualcuno possa produrre auto sia pure con un piano diverso, sì, in volumi, sì, più bassi, diciamo è un'idea avventurosa, è un'idea che potrebbe funzionare, sì, ma comunque richiederebbe quantomeno un gruppo dalle spalle finanziarie solide. Che cosa che DR non mi sembra, la linea di credito è il problema in questo momento, però gli ex operai di Termini Imerese della Fiat stanno occupando appunto anche le banche, anche perché di questi 1500 ce ne sono 500, forse 600 che sono addirittura esodati, cioè sono senza pensione in questo momento e senza lavoro. Grazie a Andrea Malan, resteremo sulla vicenda nei prossimi giorni. Adesso il GR e poi la Germania. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, in attesa dell'Eurogruppo di questa sera a Bruxelles, vertice dei ministri economico-finanziari dei paesi che aderiscono all'euro, e si discuterà chiaramente di Grecia ma anche di Spagna. La Grecia tenta oggi di formare il governo, se non si riesce si torna alle urne. In realtà l'ultimo sondaggio di opinione dà il primo posto alla coalizione della sinistra, poi Nea Dimocrazia e il PASOK. L'81% degli intervistati da questo sondaggio in Grecia comunque è a favore del mantenimento della permanenza della Grecia nell'euro. E tra l'altro il 15 maggio scade domani un'obbligazione da 450 milioni di euro. Entro giugno Atene deve versare altri 11 miliardi, varare, scusatemi, altri 11 miliardi di euro di tagli alla spesa. E poi il 20 giugno, se tutto va bene, l'Europa valuterà una terza tranche di aiuti pari a 31 miliardi di euro. Se finiscono gli ultimi 2 miliardi e mezzo ancora in cassa a fine giugno, non si potranno pagare senza quella tranche gli stipendi e le pensioni in Grecia. La Commissione Europea auspica che la Grecia resti nell'euro. Oggi abbiamo visto anche qualche tensione, più di una tensione, sui il collocamento di titoli di Stato spagnoli. Lo spread spagnolo è schizzato a 490 punti, quello italiano a 430. E però tutti i mercati guardano, oltre che alla Grecia, alla Spagna, alla vicenda JP Morgan che abbiamo appena raccontato, anche a quello che è successo in Germania. Beh, insomma, come dicevamo, non è che la crisi sia solo in Grecia. In Grecia la crisi è durissima, però. La batosta che ha preso Angela Merkel ieri nelle elezioni del Land Renovestfalia, che è il più popoloso del paese, un quarto dei tedeschi abita lì e rappresenta un quinto del PIL. Insomma, il 39% va ai socialisti dell'SPD e del governatore uscente Hannelore Kraft. E la CDU segue con il 26%, mai così basso il livello della CDU dal dopoguerra, e pensate che nel 2010 prese il 34,5%, poi Verdi il 12% e i liberali dell'FDP all'8,5%. Domani Angela Merkel incontrerà il presidente francese François Hollande, vedremo a questo punto quale sarà l'elemento di caduta, dove si potranno incontrare le due diverse visioni d'Europa. Quel che è certo è che sicuramente l'SPD ha vinto con un programma di attenuazione del rigore di bilancio, cioè Hannelore Kraft, per carità, un tedesco morbido è sempre più rigido di un greco rigido, però insomma, lì Hannelore Kraft ha detto, insomma, non esiste solo il rigore. E Angela Merkel ha tutta la mia solidarietà, perché insomma, nonostante abbia gestito malissimo da 2 anni a questa parte lo scoppiare della crisi greca, nonostante abbia fatto la faccia feroce, abbia avuto, diciamo, dei pastori tedeschi, mi riferisco a Schäuble soprattutto, ma anche altri, pronti a dire no, la Grecia rispetta i patti oppure se ne esce dall'euro, non riesce a guadagnare consenso. E il vero problema, secondo me, in Europa, l'abbiamo detto più volte, si pone, è un problema più tedesco che greco. La Grecia, ormai abbiamo visto come va, ma è la Germania che inizia ad avvitarsi un po' e ruotare su se stessa. E allora io vorrei citare un bellissimo commento di ieri sul Corriere della Sera. L'autore è uno dei notisti politici più famosi del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, che sotto il titolo L'austerità vuota dell'Europa tedesca spiega come la Germania abbia un'incapacità a diventare vera leader, quindi esercitare veramente una leadership completa in Europa, una leadership che non sia solo economica. Chiaramente il paese economicamente più forte Scrive Gale della Loggia: risulta difficile alla Germania trasformare la propria potenza economica in una dimensione di effettiva e moderna egemonia politica, in altre parole dare vita a una sfera di opinioni e sentimenti favorevoli alla sua supremazia e capaci quindi di prendere la forma di un consenso democratico elettorale. La Germania non riesce a fare con il continente ciò che invece riuscì agli Stati Uniti dopo il 1945 con l'intero Occidente: federare e dominare, ma insieme convincere e sedurre. Le manca alla Germania la capacità di incarnare una way of life libera e accattivante, di produrre universi mitico-simbolici capaci di tenere insieme in modo straordinario la prospettiva di un sogno, dell'eterna illusione e però anche quella del realismo delle cose, dell'esistenza quotidiana. Professor Gale della Loggia, buonasera. Buonasera. Oh, l'ho ampiamente citata. Intanto vorrei un suo commento dopo il risultato elettorale, perché lei ha scritto il commento prima del voto. Insomma, non porta bene sto rigore né ai greci né al resto dei paesi europei, ma neanche a Angela Merkel. Sì, io credo, da quello che ho capito, che però ci sia anche una forte componente interna in questo voto, altrimenti non mi capisco, non mi spiego perché i liberali, che partecipano da anni al governo con la Merkel e che tra l'altro hanno un'immagine piuttosto appannata da tempo, invece sono andati molto bene alle elezioni. Se era una sconfessione a tutta la politica del governo, come mai i liberali, che erano sicuramente l'elemento più debole della coalizione di governo della Merkel, invece sono andati bene? Il rappresentante della CDU nel Land della Renania-Vestfalia è un personaggio, un ministro del governo della Merkel, che però così non ha ancora scelto se vuol fare il ministro o vuol fare il presidente del Land, una persona politicamente incerta. Questo sicuramente ha danneggiato molto, se capisco bene, il risultato elettorale così negativo. Cioè, io penso soprattutto che ci siano questioni interne, e poi c'è anche un voto difensivo nei confronti di una politica che è quella dell'austerità, che peraltro i tedeschi non hanno ancora sentito sulla propria pelle, così come invece altri paesi europei tipo l'Italia, la Spagna o la Grecia. Quindi dire che l'elettorato tedesco ha sconfessato la politica della Merkel, la politica europea della Merkel, di cui peraltro lui finora non ha affatto sofferto, mi sembra così un giudizio molto, molto affrettato. No, indubbio che ci siano delle componenti anche interne, come lei ricordava, però è anche vero che insomma da quando questa crisi è diventata europea, quindi dal marzo del 2010 con la prima botta sulla Grecia, il rigore di Angela Merkel e la sua visione, a mio avviso molto miope, va bene il rigore, ci vuole il rigore, ci vuole l'austerità, ma bisogna dare anche un obiettivo, una prospettiva e interrompere questo circolo vizioso, non mi sembra che le abbia portato bene da un punto di vista politico, perlomeno non in Germania, dove appunto oggi votava il Land più popoloso del paese. Dopo, tra l'altro, sì, alcuni dicono lei ha una malcelata soddisfazione. No, non ho una malcelata soddisfazione, non penso che se tutti vanno male, tanto meglio, tanto peggio. Penso che la Germania dovrebbe rendersi conto che da solo il rigore non ci farà uscire da questa crisi. Ne parliamo dopo il traffico, però 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, ospite in questo momento Ernesto Gale della Loggia, che ieri ha scritto, giornalista del Corriere della Sera, ha scritto un commento a mio avviso molto illuminante sulle difficoltà tedesche, che non sono chiaramente le difficoltà dell'economia. La Germania è la locomotiva, è l'unica che va bene, è l'unica che si sta avvantaggiando da questa crisi dell'euro, avendo tassi reali per indebitarsi praticamente a zero. Però, professor Gale della Loggia, io volevo capire una cosa. Il suo commento a me è piaciuto molto perché, ripeto agli ascoltatori, il rigore è necessario. Nessuno sta contestando quello che ha fatto Monti nella prima fase. Dovevamo farlo anche ben prima. Un paese come l'Italia non può vivere col 120% di debito sul PIL. Vuol dire che tu vivi nettamente al di sopra delle tue possibilità. E questo vale anche per la Spagna, che deve risanare le banche, ma non solo, e per la Grecia. Quello che abbiamo detto e continuiamo a dire però è che oltre agli antibiotici devi dare anche le vitamine, cioè, e se hai uno studente un conto è punirlo e un conto umiliarlo. Con la Grecia a mio avviso si è arrivati all'umiliazione di un popolo. Allora, un conto è dare un brutto voto a uno studente, dire studia, un conto dirgli sei un deficiente, non ce la farai mai, sei un greco sostanzialmente, professore. la politica non può essere ridotta all'economia, anche quando Bravo. L'economia è così importante, ci vuole il rigore, su questo non c'è assolutamente discussione, ma la politica deve essere capace di trasmettere anche altri messaggi. Una politica che si riduce soltanto a dire bisogna tenere i conti in ordine, bisogna stringere la cinghia, è una politica che in qualche modo nega se stessa. La politica deve anche offrire prospettive, motivare, dare speranze, comunicare qualcosa che non sia la pura necessità di un pareggio del bilancio o di contenere lo spread. Se una classe politica non riesce a fare questo, è una classe politica fallimentare. La Germania, ripeto una cosa che è stata detta già da molti anni, è una grande potenza economica, ma ha un tale complesso con la sua storia politica passata, che sappiamo tutti qual è, che non riesce assolutamente a proporre una effettiva linea d'azione all'Europa. Si appiattisce su una specie di politicamente, ideologicamente corretto, che è l'ideologia che impronta infatti tutte le risoluzioni europee che vanno al di là dell'economia, che non riguardano l'economia, ma che non sommuove, non dice nulla a un elettorato, in particolare in un momento in cui si chiede a questo elettorato di fare dei sacrifici. Se il New Deal fosse stato soltanto il programma economico di Roosevelt, ma non fosse stato anche le conversazioni al caminetto di Roosevelt, non fosse stato anche i film di Frank Capra, non fosse stata la signora Roosevelt che scendeva nelle miniere e parlava con le mogli dei minatori, sarebbe stata una cosa diversa, non avrebbe avuto il grande significato storico di svolta veramente della democrazia mondiale che ha avuto. La politica è questo, la politica non è il bilancio in ordine, è qualcosa di diverso. Chi non lo capisce fallisce. Quindi più ragioniera che cancelliera Angela Merkel? Ma io credo che non riguardi soltanto la signora Merkel, per la verità, si fa un torto un po', riguarda un po' tutto il modo, guarda tutta la storia tedesca degli ultimi 60 anni, diciamo la verità. Helmut Kohl, adesso non vorrei trasformare il programma in un programma politico, ma Helmut Kohl ebbe una visione un po' diversa quando riunificò le due Germanie, e con l'appoggio di tutti i paesi europei che permisero alla Germania di fare un'operazione finanziaria, lo vorrei ricordare ogni volta, che con i parametri di adesso, col fiscal compact, sarebbe stata impossibile, perché costò 1.200 miliardi di euro alla fine la riunificazione tedesca. Prego. Sì, ebbe, diciamo così, a quel punto la Germania in quel momento ebbe una funzione di guida, però riguardava, non dimentichiamo che questa funzione riguardava in fondo il grande problema interno tedesco dell'unità tedesca. Kohl fu molto abile a capire che doveva muoversi in quella direzione, che non doveva accettare più una divisione del paese, che doveva fu molto abile nel convincere russi, americani, europei a essere d'accordo con lui, ma la cosa riguardava però la politica interna della Germania. Il problema che la Germania ha da 15 anni davanti con l'euro è che la potenza economica che lo sostiene, cioè che lo rappresenta nel mondo in qualche modo, ma al tempo stesso però non è capace di esprimere nessuna egemonia, nessuna leadership, tant'è vero che a ogni elezione viene, la sua linea viene viene sconfessata dall'elettorato. No, mi piace molto quanto lei ricordava, cioè attenzione, il New Deal, la grande opera di uscita della grande recessione del 29, non fu solo un problema di investimenti, debito e quindi di approccio keynesiano, fu uno spirito che si incarnò, e quindi dai un obiettivo, crei un Zeitgeist, uno spirito del tempo, cambi quello che è il modo di pensare delle persone, mentre qui, professor Galli della Loggia, si vedono solo tetti del 3%, abbattimento del debito in 20 anni al 60% del PIL, ed è tutto molto molto arido, e i cittadini europei mi sembra che si chiedano, e dopo che avremo stretto la cinghia, che cosa ne sarà di noi? Avremo salvato l'euro per i tedeschi? Anche perché appunto non stringono tutti la cinghia allo stesso modo, questo è il piccolo particolare. Ma secondo lei perché la Germania ha avuto questa difficoltà enorme all'inizio del 2010, quando si poteva in Europa con 130 miliardi salvare la Grecia? Ho capito, poi la punivi, la commissariavi, la obbligavi a non spendere nemmeno più un euro di quello, ma si poteva salvare la Grecia, perché la Grecia aveva un peso specifico bassissimo. Nel frattempo, non l'averla salvata, avere mantenuto il balletto sì, no, che è ripreso anche nel fine settimana, abbiamo visto le dichiarazioni tedesche, andiamo avanti senza la Grecia, è costato 1.600 miliardi di capitalizzazione di borsa come perdita. Perché non c'è questa resistenza a voler dire... Guardi, vabbè, io penso che ci siano delle cose molto profonde, di diffidenza tra l'Europa del Nord verso l'Europa mediterranea. I tedeschi hanno avuto, che già, come lei si ricorda, imposero il cambio di 1.936 lire per un euro perché non si fidavano degli italiani. Non si fidano degli europei mediterranei, forse hanno ragione, forse hanno torto, e allora hanno avuto paura che l'esempio della Grecia fosse un segnale di liberi tutti, soprattutto per la Spagna, il Portogallo e l'Italia. E allora hanno detto, proprio perché la Grecia è piccola, ne facciamo un caso esemplare, perché altrimenti però, se no, cioè, non controlliamo più niente. Io penso che ci sia stato questo tipo di ragionamento, più o meno esplicito naturalmente, che affonda le radici in una diffidenza che ha anche sui motivi concreti. Io sono stato 10 giorni fa in Grecia, vedere come ho organizzato un museo greco è una cosa pazzesca. Chiudono alle 3 del pomeriggio, il 90% dei visitatori sono stranieri, ma non c'è neanche un catalogo, se non scritto soltanto in greco, che nessuno capisce. In ogni sala ci sono 3-4 guardiasale. Cioè, evidentemente. No, ma che la Grecia così non potesse reggere, lo si sapeva anche prima, lo sapeva la Germania anche quando le banche tedesche prestavano soldi alla Grecia. Ci sono anche da noi, non nella stessa misura, adesso stiamo cercando di rimediare, però l'immagine che l'Europa mediterranea, il modo di organizzare soprattutto lo Stato, l'amministrazione, trasmette, questo qui... questo è molto importante. Non ci sono dubbi. Sì. Però vorrei chiedere un'ultima cosa, se fermo restando che è tutto vero quello che lei dice, ma i greci erano greci anche prima del 2010. Cioè adesso sembra quasi che i tedeschi si siano accorti che i greci vivono di sopra. Non è che puoi cambiare un popolo in un anno, non dovevi prestargli i soldi prima. Le banche tedesche prestarono 35 miliardi di euro ai greci, vendettero sottomarini ai greci. Cioè, sì, finché la Grecia, il castello stava su, certo, andava tutto bene, madama la marchesa. Ma mi dice un'ultima cosa, professor Gali della Loggia, si può continuare a vivere in un appartamento in cui alcuni degli inquilini non si fidano degli altri e quindi non nascondono il bilancio, nascondono il portafoglio, nascondono le cose nel frigorifero, per usare l'esempio che ha fatto lei, tra popoli del nord e del sud Europa? Guardi, la mia opinione è di no, naturalmente. Penso che l'idea, direi paleomarxista, di pensare che l'economia producesse la politica, che unificando l'economia e poi unificando le monete, che è diverso, si producesse l'unione politica, si sta dimostrando un errore assoluto. Se si fa un soggetto politico, bisogna partire dalla politica, altrimenti prima o poi l'involucro economico viene schiantato dalla politica. Insomma, non è stata la sterlina che ha fatto la flotta inglese, è stata la flotta inglese che ha fatto la sterlina, e la stessa cosa vale per il dollaro. Le monete sono l'espressione di un potere politico, oltre che economico, ma al 50% di un potere politico. Privare una moneta di questo appoggio è un suicidio. E quindi sono le monete a essere espressione di un potere politico e non la politica a essere espressione di una moneta. Grazie a Ernesto Gali della Loggia. Grazie a voi. Lei vorrebbe che la Germania pagasse tutti i debiti degli altri paesi europei, scrive uno ascoltatore. No, guardi, io vorrei che la Germania ci facesse pagare a noi i nostri debiti, come è giusto che sia, risparmiando sulla spesa pubblica, riducendo se possibile anche le tasse per chi le paga, continuando a scovare gli evasori veri, non gli imprenditori in difficoltà. Però vorrei che in Europa, se dobbiamo stare assieme con l'euro, ci fosse anche un minimo di solidarietà. Non mi sembra che le due cose, e quindi l'interesse anche verso la crescita. Da Sebastiano Berisoni, auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.